Benvenute a tutte e a tutti su Radio Liberazione. Quest'anno sarebbe stata la 13ª edizione della festa. È difficile per noi immaginare un fratello, senza la sua strada, i suoi ciottoli, i suoi portici, senza i bar e le osterie. Il 25 aprile è un percorso che affonda le sue radici nel nostro passato, nell'antifascismo e nella lotta di liberazione. È nostro dovere continuare a tramandare questa memoria e a lottare contro il revisionismo storico. Per questo Fratello Resiste per noi non è una semplice festa o una ricorrenza, ma è un percorso lungo, complesso e bellissimo, che si nutre della socialità, del mercato il sabato mattina e delle varie iniziative organizzate al Centro Sociale della Pace. Il distanziamento sociale non è riuscito a fermarci. Questa settimana abbiamo ricevuto tante fotografie dalle persone che avrebbero voluto festeggiare il 25 aprile in Pratello e vedere la strada tappezzarsi di volti e di colori, di magliette degli scorsi anni, ci ha ridato quell'entusiasmo che da sempre riempie questa festa. La trasmissione di oggi è una sintesi del programma di quest'anno, che guarda alla resistenza non come a un concetto del passato, ma come a una parte importante del nostro presente globale. Nel pomeriggio poi continueremo con una specie di palco virtuale dalle 14:30. Vogliamo ringraziare tutte le persone, tutti gli artisti e le realtà antifasciste che hanno contribuito a costruire Fratello Resiste di quest'anno, le pillole di resistenza verso il 25 aprile e il programma musicale. Buona staffetta partigiana e buon 25 aprile. Ama chi ti ama, non amare chi ti vuol male, specialmente il caporale e i padroni che sfruttano te. Non badare se so smortina, è la risaia che mi rovina. Quando poi sarò a casa mia, miei colori ritorneranno. Miei colori sono ritornati, il mio amore mi ha abbandonato. Se saremo destinati, torneremo a incominciare. Siamo le core. In perenne contrasto e disaccordo con tutto ciò che ha radice nel patriarcato. Le Chemin des Femmes è un coro di donne che resistono. E questo già lo caratterizza in termini di energia e di potenza. Siamo antifasciste. Donne di diverse età, nazione, orientamento sessuale e religione. Siamo indisciplinate. Che cantano per tenere viva la libertà e il diritto di ognuno ad essere se stesso. Per noi la voce è quella farfalla che provoca tsunami a centinaia di chilometri di distanza. Con la sororità che si può avere tra donne in un modo arcaico al di là della retorica. E cantiamo per ascoltare, per sentire. Siamo donne. Bisogna saper accogliere senza giudizio non solo le voci degli altri, ma anche la propria voce. Credo in una rivoluzione della donna. In un modo in cui la bellezza è un attacco, è un atto resistente e contrario. A dispetto di questo mondo infame. Per quanto riguarda voi il concentrato di anarchia, umanità, desiderio e follia, questo non si può spiegare, però si può ascoltare. e siamo incazzate. Con le nostre voci, la nostra follia, le nostre corpi, a questo mondo individualista e patriarcale. C'è qualcosa nella voce che resiste. Oggi, 25 aprile, nel momento che stiamo vivendo, il nostro saluto e il nostro canto va dedicato a tutte le persone ancora recluse nelle carceri, a cui mandiamo il nostro messaggio di vicinanza e solidarietà, con le loro richieste di amnistia, salute e libertà. Perché le lotte per la liberazione non rimangano un lontano eco del passato, oggi più che mai urge che si alzino le nostre voci contro l'ingiustizia e le gravi condizioni cui sono costrette le persone all'interno dei carceri. Un'altra dedica va a tutti gli anziani, in questo periodo anch'essi reclusi e lontani dai cari nelle strutture residenziali. Nella voce che resiste. Son la mondina, son la sfruttata, son la proletaria che giammai tremo. Mi hanno uccisa, incatenata, carcere, violenza, nulla mi fermo. Mi hanno uccisa, incatenata, carcere, violenza. Son la mondina, son la sfruttata, son la proletaria che giammai tremò. Mi hanno uccisa, incatenata, carcere, violenza, nulla mi fermo. Coi nostri corpi sulle rotaie, noi abbiamo fermato i nostri sfruttatori. C'è tanto fango nelle risaie, ma non porta macchia, simbol del lavoro. Abbiamo raccolta la portiamo più in su, dal Vercellese a Molinella, alla testa della nostra gioventù. E lotteremo per il lavoro, per la pace, il pane, per la libertà. E creeremo un mondo nuovo, di giustizia e di nuova civiltà. Di giustizia e di nuova civiltà. Di giustizia e di nuova civiltà. Di giustizia e di nuova civiltà. Di giustizia e di nuova civiltà. Noi Resistere oggi, liberare il vivente. Quella del 25 aprile è anche per noi una data importantissima e riteniamo che non debba essere una mera ricorrenza. Il nostro movimento fin da subito si è dichiarato antifascista. Antifascista in quanto ripudia ogni forma di oppressione, quella sui territori come quella sui corpi. Crediamo fortemente nella libertà e ci proponiamo di essere una voce che possa spezzare le catene che attanagliano il vivente, lo sfruttano, lo assoggettano e lo rendono ancora, ahi noi, schiavo di interessi terzi. Siamo legati indissolubilmente ad ogni creatura sofferente, spremuta fino all'osso secondo l'imperativo della produzione, ad ogni popolazione sovradeterminata, cui non è permesso di decidere sul proprio territorio, ad ogni montagna ferita nel nome della velocità delle merci, ad ogni oceano traboccante di microplastiche, ad ogni ghiacciaio sciolto dall'innalzamento delle temperature, ad ogni foresta distrutta dalla voracità di un sistema incompatibile per sua natura con la vita. E se il 25 aprile si festeggia la vita che trionfa sulla morte nazifascista, vogliamo condividere con voi alcuni dei motivi che ci spingono a desiderarne una diversa, a desiderare oggi una nuova liberazione. Ieri, in quella che sarebbe dovuta essere la quinta giornata di sciopero globale per il clima, è iniziato il primo Global Digital Strike. Nonostante l'attuale emergenza sanitaria impedisca di manifestare come avremmo voluto, abbiamo deciso di non rimandare la mobilitazione, ma semplicemente di immaginarla in una forma nuova. Riteniamo che l'attuale crisi sanitaria sia prodotto dello stesso sistema economico e produttivo in cui viviamo, che ha causato e continua a causare devastazione ambientale in ogni angolo del pianeta. Da quando esiste, il movimento Fridays for Future si è sempre caratterizzato per non tacere di fronte alle terribili conseguenze del modello predatorio ed estrattivista, che mira allo sfruttamento più scellerato per continuare ad accumulare una ricchezza che va nelle tasche di pochi. Questi pochi non solo devastano vite e territori sul pianeta indisturbati, ma pretendono anche che le loro responsabilità vengano oscurate, mentre le conseguenze delle loro azioni ricadono sempre sui più sfruttati. Numerosi studi stanno infatti portando a galla come l'essere umano sia entrato in contatto con un virus prima sconosciuto e come questo si sia propagato in tutto il globo. Ciò è dovuto alla totale devastazione degli ecosistemi, in particolare dal disboscamento portato avanti dall'agroindustria, per le monoculture e allevamento intensivo. Se si distruggono ecosistemi che hanno equilibri millenari, si va incontro a conseguenze disastrose, come lo stravolgimento degli equilibri tra specie. Lo stesso riscaldamento globale può portare all'incombere di nuove pandemie. Lo scongelamento dei ghiacciai rende possibile la circolazione di patogeni arcaici a noi sconosciuti e lo sconvolgimento di molti ambienti naturali porta, come abbiamo detto, alla mutazione delle relazioni tra le specie che li popolano. Questo per spiegare brevemente il perché la pandemia sia una delle prime grandi conseguenze a cui andiamo incontro con la devastazione ambientale. Ora abbiamo la possibilità nella ricostruzione post-emergenza sanitaria, di rigettare un sistema che crea e alimenta disuguaglianze e immaginare un modo di produzione radicalmente diverso, che si basi su giustizia sociale e ambientale. La lotta contro il cambiamento climatico e per la giustizia ambientale non si è arrestata e non si arresterà. Siamo vicini e solidali con tutte le popolazioni in lotta per la difesa dei propri territori, che in questa fase di emergenza sanitaria subiscono un inasprimento delle misure repressive nei loro confronti e vedono la loro sopravvivenza attaccata su più fronti. La loro lotta, inscindibile dalla nostra, non è solamente un tentativo di difesa dell'esistente. È una resistenza che, come quella partigiana, vuole completamente sovvertire il sistema esistente e far sì che la devastazione di quest'epoca non si ripeta più. Non vogliamo tornare alla normalità, perché la normalità era il problema. Quindi proprio oggi, nell'occasione della liberazione dell'Italia dal nazifascismo, ci teniamo a dire che non staremo a guardare e come partigiani ci impegneremo per liberare il pianeta dal capitalismo neoliberista che lo sta rendendo un luogo inospitale. Quando l'ingiustizia diventa legge, la resistenza diventa un dovere. Per questo giorno della liberazione noi Cantiga Caracol proponiamo la nostra versione di Avenida de Angola, del cantautore Seca Afonso, considerato il simbolo di quella rivoluzione dei garofani, che proprio il 25 aprile, ma nel 1974, seppe mettere fine alla dittatura fascista che in Portogallo durava da quasi 50 anni. È un brano che appartiene alla raccolta Traje Outro Amigo Também del 1970. Num botão de branco punho, num braço de fora prato, vou pedir contas ao mundo, além naquele preto. Vou pedir contas ao mundo, além naquele preto. Lavei uma, lavei duas, respondo já descansar. Na sala cinco meninas e um botão de sardinheira, feitas de fruta madura, nos braços de uma rameira. Feitas de fruta madura, nos braços de uma rameira. vas a descansar. Uma minha, outra é tua, outra é de quem agarrar. Grandola, Villa Morena, nostra pietade. Grandola Villa Morena, terra da fraternità, o povoi che mai sordena, dentro de ti ossida. Cari lettori, buon 25 aprile da Calamaro Edizioni. E proprio in occasione di questo 25 aprile diverso al tempo del coronavirus, abbiamo deciso di pubblicare per voi una selezione delle lettere dal carcere di Antonio Gramsci. Una selezione di lettere dove scopriamo un Gramsci più intimo, più personale. Delle lettere bellissime in cui Gramsci descrive la detenzione, la noia, l'apatia, l'inedia quotidiana alla madre, alla cognata, alla moglie, al figlio. Troviamo qui la parte più intima di Gramsci che, oltre ad essere grande uomo politico, lo scopriamo in queste lettere anche come grande scrittore del Novecento. Un recluso eccellente, appunto, e questo è il titolo che pubblichiamo per voi, che trovate gratuitamente in formato ebook sul nostro sito e sulla nostra pagina Facebook, dove potete scaricarlo. Buon 25 aprile a tutti. Salut! Ni hao. Ya yo fui. Hola, ¿qué tal? Salutare tuturor. Ciao a tutti! Siamo Ensemble di Sud. Noi suoniamo musica gypsy, cumbia, samba jazz, balkan, funky, coladera e musica tradizionale italiana. Come avete capito, l'Ensemble du Sud è un gruppo di musicisti che viene da tante parti del mondo, dal Venezuela, dalla Cina, dalla Romania, dall'Albania, dalla Moldavia, dal Senegal e dall'Italia. Viviamo a Bologna e siamo molto felici di essere qui oggi, anche se virtualmente, a celebrare con voi il 25 aprile, una festa molto importante per l'Italia e per tutti noi. Abbiamo canzoni che ricordano le geste dei ragazzi brasiliani che hanno combattuto qui nell'Appennino a fianco dei partigiani contro i tedeschi, vincendo la battaglia di Monte Castello e dando così il via libera alla liberazione dell'Italia. Un abbraccio a tutti dall'Ensemble du Sud. Viva la liberazione du nazifascismo! Da zdravstvuit svoboda! Zio vansui! Trajasca libertatia. Proft liria. Viva la liberación. Una mattina mi son svegliata. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E seppellire lassù in montagna. Soltero che con viejita sin dinero.